Capitolo 11. Il racconto di Christine ed Evana. Sono Christine de Pizan, figlia di Miriam Magdal, e parlo tenendo accanto a me colei che oggi completerà la mia opera. Fui la prima donna a concepirmi storica e giornalista professionista. Io mi mantenni scrivendo a pagamento. Mio padre, grazie al quale potei studiare, aveva una formazione universitaria acquisita a Bologna, dove vivemmo alcuni anni prima che fosse invitato a Parigi alla corte del re di Francia, Carlo V, come suo medico e astrologo personale. Quando ebbi 4 anni lo raggiunsi con il resto della famiglia. Vissi sempre nella cultura, imparai a leggere e a scrivere, e fu grazie al mio sapere che salvai la vita mia e della mia famiglia. Mio padre era felice che io amassi leggere. Avevo accesso alla Biblioteca Reale del Louvre, che proprio in quegli anni veniva assemblata. Mia madre, invece, povera donna, aborriva il mio amore per la lettura. Essendo schiava della visione patriarcale, pensava che io perdessi il mio tempo, poiché il mio destino sarebbe stato fare la moglie e la madre. In ogni caso, tanto feci. Mi sposai ragazzina e fui anche una moglie felice. Ma ancora giovane, persi sia mio padre e con lui il favore della corte del re, sia il mio amato marito. Soffrii uno strazio indicibile. Mio marito mi era stato molto caro e amai solo lui nella mia vita terrena. Più tardi amai la libertà che lo stato di vedova mi offriva. In quel momento, tuttavia, mi ritrovavo sola e senza protezione. A 25 anni dovevo provvedere ai bisogni della famiglia rimasta sulle mie spalle. 3 bambini e una madre, senza sapere nulla degli affari degli uomini, poiché la stupida usanza di tenere le mogli all'oscuro delle questioni economiche di casa le rendevano estremamente vulnerabili in caso di morte dell'uomo, non sapendo nulla di ciò che avrebbero dovuto affrontare per provvedere alla famiglia senza averne la preparazione. Fui obbligata dalla vita stessa a cambiare, a cogliere al volo l'opportunità di emanciparmi. Una notte sognai di riparare il vascello sul quale avevo navigato e che aveva fatto naufragio. Scoprii che mio marito aveva anni di stipendi arretrati da riscuotere alla corte del re. Mai avrei immaginato la umiliante trafila burocratica che io, donna, avrei dovuto affrontare per riscuotere ciò che mi spettava. Feci causa allo Stato, ma i magistrati e i giudici mi deridevano, poiché una donna che si presenta a una corte di uomini per fare richieste, anche se legittime, sperimenta sulla sua pelle l'assoluta mancanza di considerazione e di rispetto, l'irrisione e la vile arroganza di chi ha il potere di negarle i suoi stessi diritti. E anche io fui vittima di questo prepotente e brutale sistema. Ma non mi arresi, vinsi la causa dopo 14 anni e dopo altri 7 mi furono versati i denari che mi erano dovuti. Fu così che mi resi conto di quanto sia sbagliato che gli uomini non mettano al corrente le mogli dei loro affari, specialmente se le mogli sono intelligenti. Lo stato di vedovanza, tuttavia, mi fece dono di molto più tempo da dedicare a ciò che davvero mi piaceva, cioè leggere e scrivere. Un giorno qualcuno alla corte lesse certe mie ballate scritte per diletto e mi propose di scrivere un libro su quegli argomenti. Il mio libro fu poi copiato e la cosa si riseppe. Poi qualcuno della famiglia reale mi chiese di scrivere un libro sulla vita del re che mio padre servì e che io avevo conosciuto da bambina, Carlo V. Fui scelta io tra tutti gli intellettuali maschi dell'Università di Parigi. La biografia del re fu il primo di una lunga serie di libri che scrissi su commissione. Cominciai a scrivere la storia e le vite dei personaggi del mio tempo. Ebbi committenze da parte di tutta la famiglia reale, dai fratelli del re, dai duchi di Berry, Borgogna e Valois, dalla regina Isabella di Baviera, moglie del re di Francia, dal duca di Orléans e da sua moglie, Valentina Visconti. Fu la natura stessa che mi disse: «Ora io voglio che da te nascano dei nuovi libri e partorirai nella gioia anziché nel dolore. Tu dimenticherai la fatica e la pena del parto sentendo il rumore che si farà intorno ai tuoi libri». Così sorelle Gabriele e Marie, che avete ricordato come il parto avvenga sempre nel dolore. Io ho ribaltato il programma. Le commesse fioccavano. Gli Sforza mi chiesero di tornare a Milano e impiegarmi come scrivana alla loro corte, ma io rimasi a Parigi, dove mi pagavano bene. Cominciai a scrivere a pagamento di qualunque cosa mi venisse richiesta. I miei libri erano eccezionali, proprio in quanto scritti da una donna, ed era questa curiosità che li rendeva tanto attraenti. Io presi molto sul serio questa mia attività, comportandomi sempre come una professionista. Scrissi di storia, di politica, di araldica, di filosofia, di arte militare, di pedagogia, di cavalleria. Scrissi riflessioni su riforme, tasse, corruzione dei funzionari pubblici ed esenzione fiscale. Fui io a suggerire di sottoporre a un esame di Stato i funzionari pubblici, anziché permettere che andassero avanti grazie alle conoscenze. Fui definita la madre della meritocrazia repubblicana. Quando fu il momento, scrissi da donna a donna alla regina di Francia, un appello a lei e a tutte le sorelle francesi per scongiurare la guerra contro gli inglesi. Mi feci ritrarre in una miniatura mentre ero al mio scrittoio e usai poi quella miniatura come marchio di fabbrica del mio atelier di scrittura. Vestivo in modo piuttosto sobrio per la moda dell'epoca. Non ero interessata a nutrire la vanità muliebre. Nelle miniature che mi riguardavano mi feci sempre ritrarre con lo stesso abito azzurro, che divenne la mia divisa da lavoro, ma anche il mio personalissimo stile di riconoscimento. Scrivevo mediamente 2 libri ogni anno, e poiché non era stata ancora inventata la macchina per stampare, e i libri venivano copiati a mano, misi su una vera e propria impresa, un atelier di scrittura con copiste e miniaturiste professionali. L'antesignana di una casa editrice. Io presentavo al committente il mio manoscritto in forma di progetto come un'opera unica. Lo creavo anche dal punto di vista grafico. Sceglievo le immagini, le rilegature, gli ornamenti. Creai qualcosa di assolutamente nuovo. Facevo copiare i miei stessi libri nel mio atelier per chi me li chiedeva. Ne scrissi 55. Infine cominciai a scrivere riflessioni sul ruolo della donna nella società del mio tempo. Prima le scrissi come insegnamenti per mio figlio. Pensavo che insegnandogli a trattare bene le donne, a non sedurle e non parlar male di loro, lui avrebbe potuto in seguito comunicarlo ai suoi amici. Gli dicevo di non picchiarle e di insegnare loro le questioni finanziarie della casa affinché non si trovassero in difficoltà in caso di vedovanza, come era successo a me. Sorelle Gabriela e Mary, voi avete ribadito l'importanza dell'educazione alle donne nel 1900 e nel 1700, e io già nel 1400 denunciavo nei miei scritti il fatto che alle donne venisse insegnato che il loro unico valore stava nella bellezza, giacché il loro spirito prendeva la stessa forma del corpo. Anche io, come voi, scrissi che se alle bambine fosse stato permesso di studiare, non sarebbero state in nulla inferiori, al contrario, sarebbero state superiori agli uomini. Le mie miniaturiste, che lavoravano nel mio atelier di copisteria, erano più brave degli uomini. Le donne hanno condotto il mondo dalla bestialità a vita umana e ragionevole, scrissi. Osservando la storia con occhio attento e allenato, noto che periodicamente alcune di noi tornano nel mondo degli uomini a predicare ciò che il mondo non vuole udire. Ma è tutto inutile, e io non ne capisco la ragione. Non comprendo perché dopo millenni le donne vengano tuttora tenute in secondo ordine. Vi sono ancora luoghi nel mondo dove si insinua, come ai miei tempi, che le donne vogliono essere stuprate e che a loro non dispiace essere violentate, anche quando si ribellano e urlano. E ancora oggi molti uomini asseriscono che, sopra tutti gli altri vizi, le donne sono volubili e incostanti, mutevoli e leggere, di fragile temperamento, accondiscendenti come bambini e senza nessuna forma. Lo fanno in modo scherzoso, ma questo non significa che ciò sia meno dannoso di un attacco vero e proprio, poiché attraverso lo strumento del riso si continua a nutrire il disprezzo verso le donne. La sorella Heide Goetner-Abentrot ha scritto in tempi recenti che le società matriarcali forniscono una modalità di vissuto in sintonia con la natura, fonte primaria della nostra esistenza e sopravvivenza. Senza guerre, senza disuguaglianza sociale, senza inquinamento né mezzi di difesa, senza povertà né sottomissioni. Sono delle società egualitarie, pacifiche ed ecocompatibili. Sono gestite da donne e praticano la politica del consenso con la partecipazione di ogni donna e uomo fin dall'adolescenza. Invece dell'accumulo di beni è gradita l'acquisizione di stima e rispetto tramite un comportamento dignitoso e rispettoso all'interno di un'economia condivisa. Invece della concorrenza viene favorita la collaborazione. Nella maggior parte delle società matriarcali oggi esistenti è l'uomo che va a trovare la donna durante la notte, fino a quando tutti e due desiderano mantenere la relazione, scrive sempre Heide, per tornare all'alba, alla sua vita e ai suoi compiti nella famiglia allargata della madre. I beni sono gestiti dalle donne come possesso comunitario del clan. I progetti vengono sviluppati e decisi insieme nell'ottica del benessere di tutti i membri del clan. Le antenate e gli antenati, nonché le generazioni future fino alla settima. Nelle società matriarcali, la donna viene riconosciuta e onorata come sorgente della vita, collegamento tra materiale e immateriale. Non subisce violenza, nessun membro del clan ne subisce. E nella sua presenza si avverte la sua dignità naturale. Semplice, gioiosa, compassionevole e responsabile verso ogni manifestazione della vita. Nelle società matriarcali non esistono armi né mura di difesa attorno agli insediamenti o alle città. Non esiste lo stupro. Nella gestione di eventuali conflitti viene considerato il livello spirituale. L'espressione della natura e i desideri o richieste di antenati, antenate e spiriti sono tenuti nella dovuta considerazione. Questo scrive nostra sorella Heide Göttner-Abendroth. Durante quella mia incarnazione fu scritto in Francia il Roman de la Rose, in cui si parlava molto male delle donne. Usando i soliti luoghi comuni sulla nostra presunta mancanza di affidabilità e di forza. Anche in Italia circolava un libro di novelle chiamato Decamerone, estremamente offensivo nei nostri confronti. Ciò mi fece parecchio arrabbiare ed io non potei non rispondere. Così decisi di scriverlo io stessa un libro sulle virtù delle donne, La città delle dame. Volevo combattere per la dignità delle donne mortificate dalla ingiusta malignità maschile. Volevo essere una voce fuori dal coro, contro la imperante misoginia dell'epoca. Mi appellai alla regina per avere il suo sostegno e la sua benedizione, poiché mi apprestavo a sfidare uomini molto potenti e seguiti. Fu una vera operazione magica in forma letteraria quel libro. Con l'aiuto di tre dame incoronate, che vennero a me in una visione, identiche tra loro come le tre donne della tua visione, sorella Hildegard, costruì una vera e propria città fortificata in una dimensione parallela, usando la penna come cazzuola e l'inchiostro come malta, per mettere in protezione dalla cattiveria del patriarcato tutte le sorelle che lo desiderassero. Questa città ancora oggi esiste ed è attiva in una frequenza diversa da quella della realtà tridimensionale. Esiste un luogo dove le donne, le sorelle, possono vivere tutte insieme in pace, armonia e bellezza, un luogo negli inframondi di cui ora, in questo preciso momento, e con l'aiuto di colei che sta documentando tutte le storie raccontate stanotte, noi apriremo le porte per voi e le richiuderemo dietro di voi affinché possiate essere al sicuro per sempre. Ragione, rettitudine e giustizia sono le tre dame che mi guidarono nella sua costruzione. Esse mi parlarono così. Noi, le tre dame che vedi qui, siamo una stessa cosa. Non potremmo nulla l'una senza l'altra. Ciò che la prima dispone, l'altra ordina e mette in opera, poi la terza perfeziona e porta a termine. Erano i tre volti della dea che non potevo evocare direttamente, pena la scomunica. Creammo la città con le informazioni sulle donne che avevo potuto raccogliere a quei tempi. sebbene oggi alcune di quelle si siano rivelate superate. Ed ecco come la facemmo. Prima di tutto tenemmo il fossato, sgombrando la terra dai pregiudizi circa la lascivia, la debolezza e lo scarso intelletto delle donne, e trasmutandoli in devozione e compassione. Le fondamenta poi furono create grazie alle regine vittoriose. La prima pietra fu incarnata dalla stessa Semiramide, la grande regina di Babilonia, seguita poi dalle Amazzoni di Scizia, che per 800 anni mantennero un regno di grande potere guidato da donne, e da Zenobia, regina di Palmira. Queste nostre sorelle rappresentano ardimento e coraggio, ed è per questo che oggi mi accompagnano costì. Poi costruimmo le mura con il sapere femminile, le filosofe e le scienziate, che rappresentano senno e prudenza, e Didone, regina di Cartagine, dama di grande costanza, nobiltà e virtù. Insieme ad esse nominammo le più geniali donne della storia umana, coloro che crearono con la loro inventiva tutto ciò che è più importante alla sopravvivenza della tribù umana. Ecco cosa. Non le inutili chiacchiere dei filosofi, ma le buone opere concrete delle prime madri. Atena, Isis e Nicostrata crearono le lettere degli alfabeti, greco e latino, e i numeri. Atena insegnò agli uomini a tosare, cardare, filare e tessere, che tra tutte le attività femminili è la più divina, poiché l'intersezione di trame e ordito, come le due fasi del respiro, garantisce la forma ordinata del mondo nella dualità. Insegnò ad estrarre oli dalle olive e a spremere succhi dai frutti e, la più geniale tra le invenzioni, il carro. Cerere, madre degli alimenti, donò alla tribù umana l'agricoltura, l'aratro e l'uso dei buoi per tirarlo, il seminare, il mietere e separare i chicchi dalle spighe battendole, il macinare per ottenerne la farina e da essa il pane. E Isis, la grande madre, trasse dalla profondità della sua mente il giardinaggio e il piantar piante da frutta in frutteti, innestandole con altre varietà per ottenerne diverse qualità. Aracne insegnò a tingere lana e a tessere razzi, a macerare lino e canapa per liberare le fibre, ottenendone poi filati e tessuti, a creare reti e lacci per pescare e cacciare. E Panfila, che intuì come estrarre la seta dai piccoli bozzoli dei bachi e vestire la sua gente nelle terre dove non ci sono pecore a dar la lana. Completate le mura, costruimmo alti edifici, palazzi, templi e torri dove alloggiare le eccellenti dame che vi risiederanno per sempre. Per consolidare tale regno di bellezza e sicurezza, io, Christine, figlia di Miriam Magdal, pronunciai queste parole dal potere magico di creare. È ora fondato il nuovo regno delle donne, dove esse saranno padrone e non saranno mai cacciate da invasori stranieri e non dovranno andarsene per concepire eredi, per mantenere inalterate le proprietà dei lignaggi. Quelle che ora vi alloggeremo saranno sufficienti per sempre. La città è aperta a tutte le donne di grande merito, bellezza e autorità, alle sibille, guide dei re, alle figlie che accudiscono i genitori anziani, alle mogli fedeli e devote che hanno consigliato bene i loro mariti e hanno permesso loro di togliersi dai guai e di avere successo. Insomma, alle donne che eccellono per cultura, costanza, virtù, castità, modestia, saggezza, generosità e forza. Nella mia opera di costruzione della città ho menzionato moltissime storie vere di donne che hanno incarnato queste virtù. Sono stata una perfetta cronista, poiché quello era il mio mestiere. E ciò che dicevo poteva essere provato in ogni momento. Eccellenti, onorate e riverite dame e donne di tutte le condizioni, del passato come del presente e quelle che verranno. Amanti la virtù e l'onestà, rallegratevi tutte e gioite della nostra nuova città che è già costruita e popolata, alloggio onorato, dimora eterna, fino alla fine del mondo, in una città fortificata. Invitammo anche la nostra regina ad abitare nella città e lei rispose: Molto volentieri abiterò e resterò tra le mie sorelle e amiche. Le donne, principesse, dame, donne di ogni condizione, Tutte voi donne di alta, media e bassa condizione, siate vigili contro i nemici del vostro onore. Dimostrate con la vostra virtù che essi mentono. Ricordatevi, care dame, di questi uomini che vi definiscono false, leggere e incostanti. Tuttavia impiegano le astuzie più sofisticate e ingannevoli per cercare di catturarvi come bestie al laccio. E vi piaccia, carissime dame, di far crescere e moltiplicare gli abitanti della nostra città. Questo scrissi, e i miei ultimi libri furono una vera e propria opera di militanza femminista. Libri scritti per le donne, nei quali, dalla regina alla prostituta, le incitavo a reagire ai luoghi comuni e a dimostrare al sistema patriarcale quanto valiamo. Quante botte senza causa né ragione, quante infamie, oltraggi, offese, servitù e ingiurie devono sopportare tante nobili e oneste donne. E quante sono quelle che con tanti figli muoiono di fame e di miseria, mentre i loro mariti stanno in luoghi dissoluti o se la spassano in città, nelle taverne per di più. Quando i mariti rientrano, picchiano le povere donne ed è tutto quello che ricevono per cena. E non capisco perché gli uomini parlino di incostanza o di volubilità delle donne, e come fanno a non provare vergogna quando vedono che le questioni importanti gestite da loro e non dalle donne sono portate avanti con la stessa incostanza e leggerezza dei bambini. I papi e gli ecclesiastici che più degli altri dovrebbero essere eccellenti e perfetti, da poi che Costantino dotò la Chiesa di rendite e ricchezze, che ne è stato della loro santità? Come voi, sorelle, non soltanto con la mia opera, ma con la mia stessa vita io incarnai la forza femminile e la assoluta certezza che le donne possono fare tutto e anche meglio. Nell'ultimo periodo della mia vita, quando gli inglesi si impossessarono della Francia, mi resi conto che non potevo tradire il paese che mi aveva accolta e resa celebre. Io amavo la Francia e le ero grata. Non volli vivere nell'ipocrisia e nel compromesso di chi china il capo al nuovo padrone. Mi rinchiusi in monastero e vi rimasi in silenzio per 11 anni. Ruppi il silenzio per scrivere la vera storia di Giovanna d'Arco, che aveva riconquistato la Francia per il re francese. Non potevo non documentare la storia di gloria e vittoria della nostra meravigliosa sorella. Era una donna che stava salvando la Francia, una donna che stava combattendo, guidando gli eserciti e vincendo per il suo re. Che onore per le donne. Giovanna incarnava l'ideale della donna che andavo descrivendo nelle mie opere, non certo per la sua istruzione, poiché era analfabeta, ma per il suo immenso carisma. Giovanna non necessitava di null'altro per ottenere ciò che si prefisse. Ma ormai avevo più di 60 anni e morii prima di conoscere la drammatica fine di Giovanna. Mi fu risparmiato questo profondo dolore. Io documentai il momento della sua gloria e non l'ingiuria del tradimento da parte di quel misero re, malaticcio e pavido, che da lei era stato salvato. Così io, Christine, figlia di Miriam Magdal, colei che fece del suo talento un onorevole mestiere e che fu donna intellettuale di spicco tra gli uomini, in questo sacro cerchio ho parlato. Christine la splendida tacque e sedette al centro del cerchio, vicino al sacro fuoco che era stato riattizzato, insieme alle altre sorelle che con lei erano giunte. Ora io, che fino a quel momento ero rimasta in un silenzio quasi religioso, avevo qualcosa da dire. Combattendo il timore di essere considerata sfacciata e presuntuosa, mi feci avanti, deglutendo più volte, e di fronte a quel sacro consesso, così parlai. Sono Devana, figlia di Lilith. Sono arrivata sin qui lottando quotidianamente per aprire gli occhi miei e delle mie sorelle e fratelli, e per questo sono stata osteggiata e boicottata fin dai banchi di scuola. Ho sempre studiato tanto e continuo ancora oggi, poiché sono convinta che studiare sia un privilegio. Voi, sorelle, Christine, Mary, madre e Gabriella, Avete spiegato egregiamente come l'istruzione tolga le donne dalla sudditanza, ma io sono qui a dirvi che ancora, dopo più di 700 anni, la situazione non è cambiata. Ora le donne studiano, sì, ma studiano le opere degli uomini, poiché i programmi scolastici non sono cambiati e gli autori misogini che hanno decretato l'inferiorità delle donne vengono ancora proposti nelle scuole come modelli da seguire. Aristotele, Cicerone, i padri della Chiesa, Agostino, Tommaso, Boccaccio e su fino a Rousseau e oltre. Nelle nostre scuole la democrazia ateniese dell'antica Grecia viene ancora portata a modello di civiltà, ma quella cosiddetta democrazia, il governo del popolo, riguardava solo gli uomini liberi, non certo le migliaia di schiavi o le donne che avevano ancora meno diritti e potevano essere addirittura vendute come schiave dai loro padri, qualora tornassero a casa per cercare protezione dalle percosse e umiliazioni inflitte dai mariti padroni. Ci viene contrabbandata per democrazia una forma di governo che praticava la schiavitù. L'espressione par condicio, di cui tanto si riempiono la bocca i cosiddetti organi di informazione, non significa nulla, poiché le donne ancora portano i cognomi dei loro mariti o padri, mentre il ruolo generatore delle madri non è riconosciuto. Se al neonato si dà anche il cognome della madre, ci si dimentica che quel cognome è quello del padre della madre, ovvero del nonno materno. Quindi si protegge sempre la patrilinea. Inoltre le bambine vengono fin da piccole addestrate al conflitto tra donne, al sospetto verso le anziane. Come? Attraverso le fiabe di infanzia, piene di matrigne, streghe, perfide sorellastre, il cui scopo è umiliare e mortificare le loro simili. Le adolescenti apprendono una modalità di vita totalmente patriarcale attraverso l'educazione scolastica. Ancora oggi, nel mondo tridimensionale, in cui il mio corpo si sta manifestando nel momento in cui scrivo, il sistema educativo imposto nelle scuole pubbliche dai programmi ministeriali si basa su libri scritti da uomini. Sorella Christine, ancora oggi gli uomini parlano male delle donne. Sono i comici e lo fanno attraverso le loro scenette, i loro monologhi, che, attirando le risa di chi ascolta, sono doppiamente pericolosi, poiché contrabbandano come divertenti stereotipi che invece sono solamente umilianti. La grandissima percentuale di quella che viene chiamata cultura è gestita e ispirata da figure maschili. I rappresentanti delle religioni sono maschi e in molti paesi ancora le donne non hanno diritti. Mogli bambine vengono vendute a mariti anziani come schiave e muoiono di lesioni interne dovute alla lussuria dei loro padroni. Nelle scuole, nei musei, nelle sale convegni, le opere e il pensiero delle donne non è quasi tenuto in conto. Ma io vi svelo perché tutte voi grandissime antenate non siete riuscite a farvi ascoltare. Sapete bene che il mondo manifesto si regge sul binario duale bene-male, dove la sublimazione del binario bene-male è data dal rapporto complementare tra vittima e carnefice. La vittima è la massima rappresentazione del bene, mentre il carnefice lo è del male, ruolo che ho incarnato anch'io. Per tutta la vita la fatica e la stanchezza mi hanno accompagnata. Ho sempre dovuto lottare per ogni mia azione e decisione, lottare col mio corpo, lottare contro il sistema che mi ostacolava. Ho sempre faticato, cercato un'altra via, lavorato e combattuto senza mai un momento di riposo. Ma questa continua oscillazione tra i due poli è la frequenza che mantiene in essere l'illusione della solidità che i nostri sensi ci suggeriscono. Ebbene, questa dualità è necessaria per mantenere in essere quella che chiamiamo realtà tridimensionale. Il programma binario vittima-carnefice vuole che in questo copione duale sia la donna a incarnare il ruolo della vittima. Lo sa già la donna quando decide di incarnarsi per sperimentare la dualità. Lo accetta perché non c'è altro modo per entrare nella manifestazione densa, o vittima o carnefice. La sola via per uscire da questo binario instabile e doloroso è il ritorno all'una, all'unicità della vita. Per uscire dal vittimismo, sorelle mie, c'è solo la via che noi stessi abbiamo percorso, entrare consapevolmente e definitivamente nella dimensione dell'una, nel corpo della Dea, dove ciascuna di noi contribuisce in pace e pienezza al benessere comune. Laddove non c'è competizione, né abuso, né razzia, poiché tutte noi sappiamo che l'abuso si traduce in un malessere di tutta la comunità, come nelle società delle madri dell'antica Europa neolitica che tu hai riscoperto, sorella Maria. Sapete, sorelle amate, che il nostro sistema solare compie un'orbita ellittica intorno al cuore centrale della galassia, che è madre. Alternativamente, questa nostra piccola Terra si allontana dal cuore madre nella fase discendente e poi si riavvicina nella fase ascendente. La distruzione del sapere femminile e la demonizzazione delle donne è la manifestazione fisica dell'allontanamento dal cuore madre della galassia, poiché sulla Terra viene sperimentato fisicamente questo allontanamento dalla madre, negando la figura femminile, che sia della dea o delle madri biologiche, e allontanandola dal cuore degli uomini attraverso la pratica dell'insozzare la sua immagine. È una tappa cosmica, quella dell'allontanamento dalla sacra femminità, che avviene ciclicamente ogni volta che il nostro sistema solare si allontana dal cuore madre centrale della galassia. Lo stesso allontanamento dalla madre, la stessa negazione della femminità è avvenuta contemporaneamente in Europa, Cina, India, nelle Americhe. Gli uomini sono orfani, sono stati privati della madre. L'umanità è debole e malata perché è senza madre. Ma ora è iniziato il moto di riavvicinamento e la dea si sta risvegliando e sta richiamando a sé, sorella Maria, le sue figlie, grazie all'opera che tu hai cominciato. Vi svelo, sorelle, il significato occulto dell'uccisione rituale del toro, detta anche tauromachia, e conosciuta oggi soprattutto in terra iberica come corrida. Si tratta in realtà di un rituale molto antico e non circoscritto alla sola corrida in Spagna. Apparentemente una crudeltà inutile a cui non si è mai data una spiegazione. Ma il senso risulta evidente se si pensa che il bucranio, ovvero il muso del toro, era nell'antica Europa matrifocale neolitica il simbolo degli organi riproduttivi femminili. Guardate attentamente l'immagine stilizzata del muso di un toro con le sue corna. Il muso è l'utero, le corna sono le ovaie. In tutte le culture antiche il toro è un animale sacro, come ancora oggi la vacca in terra indù, sebbene pochi sappiano perché. Si è pensato e divulgato che il toro è simbolo della forza maschile nell'atto riproduttivo, ma non è così. Il muso del toro è il grembo femminile e la costellazione del toro porta in domicilio il pianeta Venere, legato alla maternità. Le incredibili opere megalitiche dette tombe di giganti, site nell'ancestrale terra di Sardegna, sono enormi dolmen a forma di bucranio. Sono convinta che la tauromachia, ossia l'uccisione del toro, corrisponda alla soppressione ritualizzata della sacra femminità, operata in seguito all'avvento della società patriarcale, come tu hai detto, sorella Maria. Tant'è che in alcune società in cui si onorava la dea, come la civiltà minoica nell'antica isola di Creta, il toro veniva celebrato, ma non ucciso, attraverso il rituale della taurocatapsia, ovvero il salto acrobatico sulle sue corna. Quando poi ci fu il passaggio forzato dalla civiltà matrifocale originaria a quella patriarcale degli invasori indoeuropei provenienti dalla Grecia, fu inventato il mito del Minotauro, ossia l'orribile creatura mezza umana e mezza taurina che viene segregata nel labirinto dove ogni anno sbrana fanciulli ateniesi. Ovviamente il popolo conquistatore, cioè i greci, dovevano giustificare la mattanza con la scusa dell'autodifesa che divenne il mito. Finché non viene ucciso il Minotauro dall'eroe ateniese Teseo. Un'altra dimostrazione di come i miti nascondano la soppressione rituale forzata della civiltà della dea. Ma ora che la dea sta tornando e la sacra femminità si sta risvegliando nella coscienza delle donne, i tori non verranno più uccisi, a cominciare dalla terra catalana, dove la tauromachia è attualmente stata proibita. Come so che la civiltà neolitica delle madri viveva nell'unità e che non vi erano conflitti, Lo so perché l'ho visto, in una visione che ricevetti all'età di 5 anni, anche io sciamana visionaria come voi, sorelle. Vidi una comunità basata sulla libera condivisione delle risorse, felice e prospera, dove non c'erano fame né bisogni né malattie, dove non si misurava il valore di ciò che si dava per averne indietro a cambio il corrispondente. Ognuna e ognuno apportava alla comunità il frutto del suo lavoro spontaneo e liberamente scelto, ottimamente realizzato e liberamente condiviso, senza denari, senza scambi, senza recinti e senza conflitti. La visione si impresse a fuoco nelle mie cellule e dopo più di 20 anni la scrissi e la pubblicai prima in una rivista, poi in un libro e una serie di articoli, ritenendo questa visione della felice gestione economica di una comunità il punto d'arrivo del percorso che avevo intrapreso con i miei studi e la laurea in economia. Intitolai Economia la mia visione. Il conflitto che invece muove le società patriarcali è frutto del programma duale basato sul copione vittima-carnefice, che vede contrapposte le due fazioni, noi e loro, i buoni e i cattivi. Il programma duale sta in piedi alimentando paure che a loro volta sostengono il conflitto tra le due fazioni. Il patriarcato esiste e si basa su questo programma di conflitto. La password per uscire dal programma dualità ed entrare nell'una è il mantra porgi l'altra guancia. Vi siete chieste perché non è stato detto semplicemente porgi la guancia, senza specificare l'altra? Ovvero, sintonizzati sull'altra via, la via femminile, la sinistra, quella della grande madre che vibra nella frequenza unitaria. La chiave d'accesso è la sacralità dei semplici gesti di ogni giorno trasformati in cerimonie dalla consapevolezza. Offrire alla comunità le proprie azioni e il proprio lavoro in modo sacro. Tornare a sentire la casa come tempio e ridivenirne le sacerdotesse. Cuocere il pane come preghiera. La via delle madri che tu riscopristi, sorella Maria, è questa che ci riporta nell'Eden della prima era. Con voi, sorelle amate e onorate, la cui vista mi riempie gli occhi di orgogliose lacrime, ora voglio fondare un'altra città delle dame. Sorella Christine, sii guida e garante della correttezza di quanto si esegue in questo sacro momento, con un'azione magica pari a quella che tu facesti. Sorelle tutte, alzatevi e formiamo un cerchio intorno al sacro fuoco, un cerchio attraverso i millenni. Insieme a me, ripetete ad alta voce, sia ora fondato il pianeta delle donne, non una semplice città, ma un intero pianeta verde, puro e fertile, dove le donne possano vivere al sicuro con le loro famiglie, dove la guida delle donne assicuri l'equa suddivisione delle risorse, l'etica e il rispetto di ogni forma di vita, con il ritorno in noi della grande madre, nella pace, nella gioia e nell'abbondanza. Così io, Devana, figlia di Lilith, colei che riporta ora nel mondo le antiche tradizioni delle femmine divine, in questo sacro cerchio ho parlato. Sia fatta la nostra volontà. Così è. Tutte le sorelle si alzarono in piedi. Ci prendemmo per mano, innalzando un forte canto al cielo e offrendo alla terra la preghiera che ci aveva lasciato la sorella Lobaris. Aie, aie, aie, aie, aie, aie, aie. Fossa metterò la mia anima, la impasterò con acqua e farina. Nella seconda fossa la modellerò. Dalla terza fossa prenderò altra farina. Dalla quarta con le mie mani aspergerò l'acqua. Nella quinta fossa accenderò il fuoco. La sesta è una pietra calda. La settima fossa e il tandir. Così preparo il mio ayahuasca. Vieni alla mia tavola. Ad una le sorelle dissero: sia fatto. E mentre lo dicevano, cominciarono a dissolversi, poiché il cerchio era stato sciolto e lo scopo adempiuto, e si andava formando dal cerchio la spirale femminile, che dal cerchio era generata, la sua naturale evoluzione. Ognuna delle sorelle tornava alla sua frequenza e alla sua attuale incarnazione, finché accanto al sacro fuoco, ormai ridotto a poca brace, non rimase che Brigid dalle trecce rosse. Silenziosa, versò un po' d'acqua sulle braci, ringraziò gli spiriti del luogo per la loro benevolenza, raccolse il vasellame e prese la strada del bosco, sparendo senza lasciare traccia.